ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Nuotammo a fatica verso la barca. Il tempo era sereno, ma il mare, complice anche il vento, era più che mai agitato. Arrivai alla barca. Il problema era salire a bordo. Storie di gozzi sorrentini e di naufragi atlantici in una puntata che si intitola Alla deriva. Era un'impresa fino allora mai tentata dall'uomo. Primo, non sapevamo se la barca avrebbe resistito. E secondo, non sapevamo se l'uomo avrebbe resistito. Si fecero avanti navigatori esperti. E poi c'era l'uomo misterioso, Don Crowhurst. Mesi di solitudine. I psichiatri dicevano che un essere umano sarebbe impazzito in quell'impresa. Cominciò ad asserire di aver navigato più di quanto non avesse fatto in realtà. Don Crowhurst navigò al di là dell'orizzonte, andando incontro all'oblio. La storia di Don Crowhurst è una storia che è stata raccontata in questo film che si chiama Deep Water. È un documentario ed è una storia che non parla solo di mare, non parla solo di un naufragio, parla in realtà di un uomo che si inventa due realtà. Una realtà che deve consegnare ai giudici di gara per fare loro verificare che sta navigando realmente, e una realtà, e quella realtà è finta, è inventata, perché lui non sta navigando. Da un certo punto in avanti smette di compiere la sua navigazione, faceva parte di una regata che era appunto una gara degli anni 60, del 68, che si chiamava Golden Globe. È un altro diario che invece è la realtà, ed è quello che gli passa per la testa, è quello che sta vivendo da solo in mezzo all'oceano. È un film bellissimo che si chiama Deep Water, e lo trovate di qualche anno fa, ormai credo una decina d'anni fa, e lo trovate probabilmente online o su qualche piattaforma in streaming. Tutto perché la puntata di oggi si intitola Alla deriva. Voi lo sapete, se ascoltate Linee d'ombra sapete che qualsiasi riferimento che noi diamo, che sia legato a un mondo particolare, lo sport, in questo caso la navigazione, oppure la scuola, oppure il viaggio, in realtà è un modo per raccontare sempre qualcosa di più rispetto a quell'angolo di storia lì. È un modo per entrare attraverso le storie in un mondo e raccontare poi alla fine un piccolo pezzo di umanità, cioè un pezzo di un essere umano che come noi mangia, dorme, vuole innamorarsi, vuole riposarsi, ha bisogno di un lavoro, insomma un essere umano come tutti noi. Gli esseri umani che raccontiamo sono per lo più quelli che ascoltano questo programma, ma non solo, perché nella puntata di oggi, come sempre, mettiamo insieme due storie bellissime. Uno è la prima storia che vi raccontiamo è sì quella di un ascoltatore, cioè quella di Maurizio, che ci racconta cosa accade con un gozzo sorrentino, che è una barca a motore in legno di Sorrento, in questo caso definito gozzo sorrentino perché è una particolare specie di un particolare tipo di gozzo. E poi invece la storia di un giovane velista che vuole provare ad attraversare l'oceano, non ce la fa e lo racconta con le sue stesse parole, anche con una grande calma e una grande placidità. E poi la storia di Antonio Cocco, la storia di questo giovane uomo che intraprende un viaggio che lo porta davvero, sì, in quel caso, nell'abisso, perché non tornerà più da quel viaggio. È un viaggio che viene raccontato attraverso le lettere che lui invia al padre, è un viaggio che abbiamo scoperto grazie all'archivio diristico nazionale, ed è anche un libro, si intitola Ridotta Isabel, Antonio Cocco, nella legione straniera senza ritorno, da Dien Bien Phu, lettere 1952-1954. Raccontiamo sempre un pugno di storie qui a Linee d'Ombra, storie che hanno un confine nel mezzo, una linea che è stata varcata e oltre la quale qualcosa di diverso è successo nelle nostre vite o nelle vite di chi la racconta. Ed è così per la storia di Maurizio, è così sicuramente per la storia di Nicolò Gamenara che vi raccontiamo oggi, ed è così anche, ahimè, per Antonio Cocco. Insomma, abbiamo un po' di storie pronte ad essere raccontate, voi dovete solo mettervi comodi e ascoltarle. Benvenuti a Linee d'Ombra. Abitavo a Maiori, un paesino della costiera amalfitana, e con i miei amici di sempre, Giancarlo e Valerio, avevamo pensato di acquistare una barca da pesca tipica della nostra costa, un gozzo sorrentino. La scelta era stata attenta e ponderata. Dopo averla individuata, iniziarono le trattative e alla fine, finalmente, la portammo a casa. Cominciammo i lavori di trasformazione e manutenzione rigorosamente in economia. Valerio alla meccanica, Giancarlo parti elettriche, io pulizia e ragazzo di bottega di entrambi. Finalmente, dopo un periodo di lavoro, avevamo realizzato il nostro sogno. La nostra barca era pronta per il mare. E pregustando le uscite con i nostri amici e amiche, la varammo battezzandola L'Afide. Le gite in mare si susseguirono e la barca soddisfaceva le nostre aspettative senza nessuna problematica. Eravamo felici del nostro acquisto e il lavoro e l'impegno economico erano ampiamente ripagati. Ma il mare è imprevedibile, specialmente quando l'estate è al termine. Così, in una domenica di fine agosto, avevamo deciso di non uscire in mare. I bollettini meteo davano maltempo. Molti diportisti avevano deciso di spostare le loro barche al porto di Salerno, mentre altri, avendo imbarcazioni piccole, avevano deciso di tirarle in secco sul lungomare di Maiori. L'Afide però era una barca di legno di 7 metri e pesava svariati quintali. Troppo difficile tirarla in secco velocemente, troppo lenta per portarla a Salerno. Per cui si decise, come altre volte, di lasciarla ormeggiata su una boa molto distante dalla riva. L'appartamento dei miei genitori si trova sul lungomare, per cui io ero deputato al controllo delle condizioni del meteo e periodicamente mi affacciavo dal balcone di casa controllando la situazione. Il mare già dalla notte precedente aveva cominciato a brontolare e la mattina aveva preso a dare il meglio di sé. Le mareggiate di fine estate, pur brevi, possono essere molto intense. Ero abbastanza in ansia, ma tutto sommato le cime e l'Afide resistevano all'infrangersi delle onde, nonostante la mareggiata fosse a tratti cattiva, quando ad un tratto vengo avvisato telefonicamente che la barca è alla deriva. Corro subito a controllare, mi sembra tutto normale, poi osservando meglio mi rendo conto che seppur ancora legata alla boa, questa non era al solito posto, per cui era evidente che la catena di fissaggio al fondale si era spezzata e l'Afide era alla deriva viaggiando verso un destino inesorabile, infrangersi sulla barriera degli scogli. A quel punto provo ad avvisare subito Giancarlo e Valerio per decidere da farsi e per trovarci giù alla spiaggia, ma il primo aveva appena pranzato e inoltre doveva aprire la farmacia dei genitori. Il secondo non si riusciva a rintracciare, per cui mi feci coraggio e con la mia Vespa velocemente mi portai al punto più vicino senza avere bene in mente quello che avrei potuto fare. Appena arrivato trovo Giancarlo e varie persone che ci dicono le cose più disparate sul da farsi. In un piccolo paese tutti si conoscono, per cui tra i consigli di tuffarci in mare, chi diceva che era troppo pericoloso e quelli che facendoci coraggio dicevano di rassegnarci, l'avremmo persa la barca, la confusione nelle nostre teste regnava sovrana. A un certo punto mi sento chiamare, mi giro ed è Salvatore, lo zio di Valerio. Pur essendo giovane era più grande di noi, un carattere duro, un po' spigoloso, ma è estremamente disponibile. Inoltre, per Valerio era un punto di riferimento per le questioni di mare. Devo dire che pur conoscendolo, non avevo mai avuto un grande rapporto. Oltretutto, penso mi considerasse un po' un figlio di papà, e per questo non proprio adatto, o peggio, non proprio capace a fare certe cose. Fatto sta che si avvicina e mi dice: «A bordo c'è tutto? Te la senti? Andiamo a prenderla». I wanna run. Io sinceramente non mi sarei mai tuffato, le onde erano imbarazzanti. Pur essendo un buon nuotatore, non mi ero mai trovato in una situazione del genere. Ma potevo tirarmi indietro? Che figura ci avrei fatto? Come sarei stato giudicato? Per cui, facendomi coraggio e ben nascondendo le mie paure, cominciai a sfilarmi la maglia gialla. Fu in quel momento che Salvatore mi disse: «No, no, tienila, perché se vai a fondo riesco a vedere dove sei». Insomma, immaginate cosa mi passò per la mente. A quel punto però avevo solo un'opzione: tuffarmi. E così feci. Cercavo di seguirlo come un'ombra, arrancando e con molte difficoltà. Salvatore invece si muoveva come un salmone che risale un fiume. Nuotammo a fatica verso la barca. Il tempo era sereno, ma il mare, complice anche il vento, era più che mai agitato. Non so esattamente quanto ci mettemmo a fare circa 100 metri, ma a me sembrò di aver attraversato la Manica. Arrivati alla barca, il problema era salire a bordo. Le murate del Gozzo erano abbastanza alte, per cui prima salì Salvatore, agile, un fascio di nervi. Poi toccò a me, facendomi aiutare da lui. A quel punto presi il timone e con difficoltà lo infilai negli anelli che lo fissano fuori, a poppa, mentre Salvatore accendeva il motore. Non mi sembrava vero che fosse tutto così facile. Nonostante le onde che ci sballottavano, mollammo la cima facendo un mezzo giro, mettendola pure verso il largo, ma ecco in agguato il primo inconveniente. In tutta quella frenetica corsa mi ero dimenticato che la cima della boa era del tipo galleggiante, per cui nel virare la prendemmo nell'elica. A quel punto, spento il motore, Salvatore si tuffò in acqua e mentre io cercavo di tenere la cima della boa lenta, lui con un coltello tagliava quel maledetto groviglio. Non fu semplice per lui. Le onde alzavano la poppa della barca facendola sbattere sull'acqua violentemente. Tutta l'operazione sembrò interminabile, ma alla fine, con la sua tenacia, Salvatore riuscì nel suo intento. Stremato risalì sulla barca e prendendo fiato mi indicò di rimettere il timone fuori, cosa che cercai di fare prontamente, ma fu a quel punto che arrivò un'onda che colpì la barca di traverso e ci scaraventò entrambi fuori bordo. Perso anche il timone che la corrente aveva allontanato, non ci restò che buttare la spugna e cercare di nuotare verso riva. E così facemmo. Sembrava semplice. Vedevo le persone che si sbracciavano e urlavano, ci indicavano quando era il momento di avvicinarsi. A me, francamente, non sembrava mai il momento. Nuotavo, nuotavo e nuotavo, ma rimanevo più o meno nello stesso punto. Fu allora che notai Salvatore. Lui era riuscito a cavalcare l'onda planando come una tavola da surf, indenne, arrivando sulla spiaggia. A quel punto aspettai il momento e mi lanciai imitando Salvatore, o più propriamente una tavola da surf. Andai per qualche momento sotto, ma pensai che era tutto nella norma. Mettevo giù i piedi per vedere se ero arrivato a riva. Toccavo il fondale e pensavo: ci sono riuscito. Cercavo di mettere la testa fuori, ma non trovavo l'aria. C'erano solo acqua e schiuma. E allora ritentavo appoggiando i piedi sul fondale e cercando di darmi uno slancio con le gambe. Vedevo che stavo lì lì per uscire, ma non ci riuscivo. Non avevo più la forza per farlo. Avevo la sensazione che qualcuno mi tenesse per le gambe. Fu a quel punto che sentii una mano afferrarmi i capelli e la maglia gialla che indossavo e che mi trascinò fuori. Era Salvatore, che con calma mi disse: «Hai visto a che serviva la maglia? A tirarti fuori se andavi giù». C'era un sacco di gente sulla riva, curiosi che si erano fermati ad osservare come si fa in questi casi. Qualcuno mi chiese se stavo bene. Io con il capo feci un cenno di assenso. Fu in quel momento che il mio sguardo incrociò quello di Salvatore. Non disse nulla. Non era il tipo, ma percepivo nel suo sguardo l'approvazione per come mi ero districato in quella situazione e forse anche la meraviglia per il coraggio che avevo dimostrato. La barca, che intanto era alla mercé delle onde, si posizionò in modo tale da infilare un'onda e, come una tavola da surf, planò dolcemente sul bagnasciuga, spiaggiando come una balena. Con stupore nostro e dei presenti notammo che la barca non presentava nessun tipo di danno strutturale, quasi a volerci ripagare di quell'estremo tentativo di metterla in salvo. Dopo aver messo in sicurezza l'imbarcazione, tornai a casa. Avevo ancora addosso l'adrenalina, ripensavo a tutto, come si pensa ad un film appena visto. Rivedevo tutto con dei flash. Solo a quel punto realizzai quanto stupido fossi stato e quanto avessi rischiato. Quanto è sottile la linea tra esserci e non esserci più, E quanto fortunato ero stato ad avere un compagno d'avventura forte e capace come Salvatore. Gli anni passarono, le nostre vite ci avevano portato lontani. Un giorno ebbi la notizia della sua morte. Quando tra amici ci raccontiamo questo episodio, non posso fare a meno di pensare con un velo di tristezza a Salvatore e quel suo modo di essere, e soprattutto alla mia maglietta gialla. So we meet again after several years. Several years of separation. Moving on, moving around. Did we spend this time chasing the other's tail? Saying, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Winter and spring, winter and spring, summer and fall, summer and fall. You're the wind surfer crossing the ocean on the boat behind. Skiffling rag, skiffling rag, shuffling waltz, shuffling waltz. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing oh oh oh oh oh. I can never belong to you. Oh oh oh oh oh. I can never belong to you. Abitualmente in questo pezzo di Linee d'Ombra noi sentiamo l'ascoltatore che ci ha mandato la storia. Purtroppo noi non siamo riusciti a recuperare l'autore della storia di oggi. Devo dire che è un caso rarissimo, proprio perché Anita Panizza è un segugio che ti viene a scovare in qualunque tana. Tra l'altro ne approfitto per chiedere in maniera ufficiale, quando ci mandate la storia, ce la mandate al nostro indirizzo lineedombra@radio24.it, in particolar modo se non leggete abitualmente quella mail da cui ci avete mandato la vostra storia, aggiungeteci il vostro numero di telefono. Vi promettiamo che non lo useremo per in maniera non opportuna. Se noi abbiamo anche il vostro numero di telefono inserito nella mail, sotto il racconto, dove volete, è semplicemente più facile contattarvi, perché altrimenti è un peccato. Sapete che per noi raccontare la storia certo è importante, perché l'episodio in sé può essere più o meno interessante, ma lo è anche grazie al fatto che poi vi sentiamo la vostra voce, sentiamo quello che avete da raccontare in più o che magari non siete riusciti a dire all'interno di quell'episodio del testo scritto, o semplicemente conosciamo un pezzo di mondo, e quindi per noi sentirvi parlare con voi è molto importante. Quindi in assoluto, in generale, quando ci mandate la mail con dentro la vostra storia, infilateci anche un altro contatto, un contatto telefonico, possibilmente magari un cellulare, se soprattutto se non rispondete di frequente al numero di telefono fisso. Tant'è, insomma, non siamo riusciti a trovare l'ascoltatore di oggi, ma ne approfittiamo per continuare quella pratica che abbiamo iniziato settimana scorsa con l'ascolto degli audio WhatsApp. Andreina si chiama la protagonista del prossimo audio. Ce l'ha mandato al 331 57 55 721, che è il nostro numero WhatsApp a cui anche voi potete mandare un messaggio vocale, solo un messaggio vocale. I messaggi scritti purtroppo ce ne facciamo molto poco, e poi per le storie scritte abbiamo già il nostro indirizzo lineedombra@radio24.it. un messaggio vocale in cui ci raccontate la linea d'ombra che state attraversando adesso, in questo momento. Quindi noi in pratica abbiamo immaginato di lasciare da una parte alla parola scritta la linea d'ombra che avete varcato in un passato, in un tempo che non c'è più e da cui avete preso in qualche modo le distanze, che vi ha trasformato, eccetera eccetera, e invece lasciare al racconto a voce, dalla vostra voce, quindi la linea d'ombra che state attraversando, che state vivendo in questo momento. Proprio il caso di Andreina, che è un'infermiera e ci racconta con la sua voce, ripeto, al 331 57 55 721 una storia legata proprio a questo momento di transizione anche molto complesso che lei sta vivendo. Vi ricordo, se volete farlo anche voi, 331-57-55-721. Questa è la linea d'ombra di Andreina. Sono un'infermiera caposala e vi racconto la mia linea d'ombra, che per me invece è il passaggio nella nebbia. Sapete, la nebbia in Valpadana, il sole c'è ma non si vede. Ho 58 anni e ho lavorato in quest'ultimo anno nel Covid. Dopodiché a maggio ho deciso che non ce la facevo più. Perché non c'era soltanto il lavoro, ma anche l'accudire mio padre di 92 anni. E così ho deciso il mio cambiamento. Non è ancora maturato l'età della pensione, anche se ho 41 anni di lavoro, ma non ce la facevo più, troppo. E quindi ho deciso. Ho chiesto 2 anni di aspettativa, che è concessa a chi si prende cura di una persona disabile, e da agosto sono a casa per accudire mio padre. Con mia madre non sono riuscita ed è morta in ospedale. Io mi occupo di assistenza domiciliare, quindi ho deciso che è meglio per me che mi prenda cura di mio padre a casa finché posso, perché se dovessi farlo ricoverare in ospedale o in una casa di cura, sicuramente non lo vedrei più. E la cosa che mi turba solo al pensiero è di farlo morire solo, come è successo a tanti. Ecco la mia linea d'ombra. E adesso sono qui con mio padre. Mi manca il mio lavoro un po', ma sono certa che, come con la nebbia, il sole c'è, è solo nascosto, e riuscirò a vederlo senza rimpianti. Grazie ancora davvero ad Andreina per questo messaggio, grazie a Paulino Corleoni che musica la vostra voce quando ci inviate le vostre storie al nostro numero WhatsApp, che vi ricordo 331-5755-721, la linea d'ombra che state attraversando. Accendete il microfono del telefono e lasciatevi andare nel racconto, non guidatelo troppo, non scrivetelo, quello se lo scrivete poi mandatecelo al nostro indirizzo, ma quando siete al telefono, quando avete il vostro messaggio vocale, è proprio che vi chiediamo di lasciare libero il vostro racconto, la vostra narrazione, perché è davvero un altro modo di raccontare le storie. 331-5755-721. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. La puntata di oggi si intitola Alla deriva, e forse qualcuno di voi è ancora al mare in questi giorni, non lo so, anche se non ha una barca, non ha un gozzo, ha sicuramente sperimentato la sensazione di essere trasportato dal vento e dalle onde, magari anche solo su un materassino gonfiabile o su un pedalò che si fa fatica a governare. È di un paio di settimane fa un video che sembrava finto, in cui una bimba veniva recuperata su una di quegli enormi gonfiabili a forma di peacock, di uccello, che navigava in mezzo al mare, recuperata da un traghetto. Se non l'avete vista, cercatela, perché sembra davvero un film, e invece la realtà credo fosse al largo di un'isola greca, se non ricordo male. Insomma, quella sensazione lì l'avete sperimentata. Ed ecco, la prossima storia ci racconta esattamente questo. Non è ambientata su un pedalò al largo di Lignano Sabbia d'Oro, ma è su una barca a vela in mezzo all'Atlantico, e racconta di qualcosa che va storto. A raccontarla sono le parole del protagonista. È uno skipper, è 27enne, si chiama Nicolò Gamenara, e l'ha raccontata in questo modo a Il Giornale della Vela. State con noi. Erano tanti anni che volevo partire per un viaggio lungo in barca, senza troppi porti o ancoraggi, ma solo centinaia di miglia in ogni direzione. Trovare l'egoismo necessario per partire non è stato facile. Nell'inverno del 2017 ho comprato ad Olbia un mini transat, cioè una barca dregata di 6 metri e mezzo, nata per fare traversate atlantiche. Era in realtà una barca un po' sfigata, lenta, strana, di poco valore commerciale. Quest'ultimo punto, soprattutto, mi interessava molto. A novembre 2018 sono partito da Cecina con l'intenzione di arrivare alle Bahamas e poi, da lì, in Florida. L'uscita dal Mediterraneo è stata lunga, ma sorretta da una buona volontà e tanta voglia di ritrovarmi in mezzo all'oceano. Tangeri, il mio ultimo porto prima delle Canarie. Poi, solo oceano. Insomma, sono felicissimo. La barca è carica ma sopporta e facciamo medie decenti. Cerco di timonare il più possibile e di non lasciare il timone al pilota automatico. Dopo una bellissima traversata, atterro a La Graciosa, le Canarie. È il 13 dicembre, è un mattino. Sono spaesato e frastornato. Per fortuna è pieno di francesi, stringo delle belle amicizie. Dopo qualche giorno mi sposto a San Miguel de Tenerife e poi volo a Roma perché è Natale. Dopo Capodanno ritorno sulla barca, torno alle Canarie, sento di nuovo la pressione, anche se non so il perché. Gli amici locali mi sostengono e sdrammatizzano i miei dubbi. Alla fine parto con un bel vento da nord, teso. Il piano è arrivare a San Salvador, Bahamas, 3200 miglia, più di 5000 chilometri. Well, I've just met an Italian friend, Nicolò. Ciao amico, come stai? Very good. Very good. Amico italiano che acabo di conoscere. Nicolò, che se va a navegare in este mini Transat, va a cruzar el Atlántico. Ahora, dentro de breves minutos, va a salir. Y tiene calculado unos 25 días, ¿no? 25. He's calculating 25 days to cross the Atlantic. Yeah. It's a 1,000 kilo boat. He's got about 70 liters of drinking water. Yeah. 70 litros de agua. Yeah. Va a beber. Enough food, suficiente comida. Y high spirits. And a very adventurous guy. I wish you all the best. Thank you very much. Mucha suerte. Yes. Y nos vemos allá, que yo también tengo pensado ir para allá. Okay. I'll see you there in the future. Okay. And here he goes. Y aquí se va este aventurero de Italia. Okay. Ciao, my friend. Have a nice sail. Tutto va benone rispetto alla mia solita abitudine, prima 24 ore tranquille, poi si comincia a spingere un po' di più e a fare camminare bene la barca. Il terzo giorno, appena dopo aver fatto il punto di mezzogiorno sulla carta, momento nel quale di solito riflettevo sulla rotta da fare, mi accorgo che il timone ha le boccole scassate e il pilota automatico lavora male. Rifletto, sono tranquillo, so che ho l'opzione di fermarmi ancora una volta a Mindelo, a Capo Verde, perché è di strada, e infatti faccio così. A Mindelo ho subito dei brutti pensieri e non apprezzo molto il luogo, odori acri, rumori ai quali non ero più abituato, troppa confusione. Trovo un fabbro, mi fa due boccole nuove, raddrizza l'asse e mi spenna. Riparto con un bel vento da nord-est, forte, 30 e passa nodi. Ma dopo i primi giorni iniziano i problemi. Quando il vento cala, cala per davvero. Per 4 giorni faccio solo una bolina con delle brezze incostanti che nella notte di solito scompaiono completamente, lasciandomi alla deriva. Una nave che incrocio dopo il secondo giorno di piatta, via radio mi passa le condizioni meteo, mi dice di aspettarmene altrettanti di giorni senza vento. Non facendo ad altro. Gli Alisei purtroppo non li vedrò più. Nei giorni seguenti, dal 27 gennaio al 1 di febbraio, battaglierò con venti da ovest di 30 nodi che poi rinforzeranno ancora. La barca comincia a dare segni di cedimento. Dalla chiglia inizia ad entrare acqua ad ogni onda che prendo. Ho rallentato la barca, ho preso una rotta diversa per non farla sbattere troppo e ho ridotto fino alla sola tormentina, la vela più piccola. fino a quando l'ultima notte ho deciso al mattino di lanciare l'SOS e di attivare l'EPIRB, il trasmettitore che indica la posizione di emergenza. Era il 1 febbraio, la chiglia mi faceva troppa paura, l'acqua continuava a entrare e ormai la puzza di acqua e resina in decomposizione era terribile. Attivato l'EPIRB ho iniziato a preparare la barca all'abbandono e la zattera di salvataggio in caso fosse stata necessaria. Mayday, mayday, mayday. Vessel in distress, code of course, I feel the southeast on channel 16. What is your position in age of distress? What do you got? Listen, Bessel, Captain Billy, does anybody hear me? Vessel in distress, code of course, I feel the southeast on channel 16. What is your position in age of distress? We have a man gone crazy here on the boat, man. My position is 40.24 north, 069 west 27. 069.27 west. Can anybody hear me? La sera, verso l'imbrunire, un cargo mi contatta via radio. Sono a tiro di VHF, sono a tiro di radio. Salto fuori e lo vedo in lontananza avvicinarsi. Si chiama Baltimore ed è della compagnia greca Diana. Il comandante si accerta subito che io stia bene e poi iniziamo a discutere come procedere. Mi dice che vogliono provare a caricare la barca sul cargo. Io penso che stia scherzando. Gli dico che ci sono ancora almeno 3 metri d'onda. Comunque sia, mi avvicino usando il fuoribordo alla nave, sulla murata di sinistra. Mi passano una cima e la passo attorno all'albero, poi salto sulla scala, la biscaccina, e volo a bordo della nave. Appena sul ponte quasi non riesco a stare in equilibrio, il rollio lento ma pronunciato della nave al traverso del mare è così diverso da quello a cui sono abituato. Mi accolgono a braccia aperte. Sono tutti filippini, mi dicono, ma parlano un ottimo inglese. Fumo una sigaretta, è la prima da un mese. Ok, sto meglio. Andiamo dal comandante sul ponte, mi dice quello che poi saprò essere il terzo ufficiale. Intanto vedo la gru che vorrebbero utilizzare. Sono perplesso sulla possibilità di riuscire a tirarla a bordo. La barca nel frattempo sbatte e salta contro la murata della nave. Iniziamo le operazioni per caricarla a bordo. Tra il mare e il ponte della nave ci saranno 15 metri d'altezza quasi. Tutto l'equipaggio viene coinvolto nell'operazione, cuoco compreso. Alla fine, dopo 3 ore, ce la facciamo e la barca è sul ponte della nave. Per un attimo ho rischiato di sbarcare in Corea, destinazione finale del viaggio, ma poi, grazie alla disponibilità della compagnia, siamo riusciti a organizzare uno sbarco veloce e un rimorchio in porto qui a Cape Town. Ero partito perché volevo testare la mia passione in qualche modo. Dopo anni di comode barche, grandi ed equipaggiate, mantenute alla grande, mi interessava vedere se ancora la scintilla del bambino era vivo. Posso dire che lo è, più che mai, anche se il finale è duro da digerire e da accettare. Non fai altro che pensare e appuntare cosa faresti di diverso e cosa non faresti più, insomma, i pensieri ti attanagliano. Siccome la passione è viva e da soli si sta tutto sommato bene, voglio continuare a navigare e presto lo farò con una barca nuova. We packed our bags and said farewell and tied the knot and raised a sail. We threw our hearts into the sea, forgot all of our memories. The wind was sweet and smelled of home. The sea was rough and felt unknown. Escaping shores of lunacy. Twilight, infinity. Can we keep our bearings straight? Or will we be blown off course? Are we instruments of fate? Or do we really have a choice? Questa storia, queste pagine di diario, noi le abbiamo lette sul Giornale della Vela, le aveva scritte Nicolò stesso, Nicolò Gamenara. Ormai Nicolò sta molto bene, è passato un anno e mezzo da quel periodo, era infatti il gennaio del 2019. Tra l'altro ne approfitto per salutarlo, perché quando ho cercato di avvisarlo del fatto che avremmo raccontato questa storia, ho scoperto che seguiva il programma, insomma seguiva il nostro lavoro ed era molto molto felice di esserne parte. Quindi appunto un abbraccio e un saluto a Nicolò. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare l'incredibile, bellissima e terribile storia di Antonio Cocco. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo Spezia, so che sei bravo. Linee d'ombra. La Legione Straniera è un corpo militare dell'esercito francese, che lo stesso esercito francese definisce un corpo d'élite, un corpo militare d'élite. Venne fondata nel 1800, venne fondata da re Luigi Filippo di Francia perché aveva bisogno di gente che combattesse in Algeria, e il reclutamento dei legionari avviene tutta quanto per base volontaria, ed è formata da volontari in gran parte stranieri. Ci sono anche francesi, ma in gran parte sono francesi, e l'età per l'arruolamento oscilla tra i 17 e i 40 anni e la durata della ferma iniziale è di 5 anni, quindi si firma, si rimane per 5 anni. Questo lo dico per cercare di raccontare un pochettino meglio che cos'è la Legione Straniera, visto che stiamo raccontando la storia di Antonio Cocco, che è un giovane ragazzo veneziano che nel 1950, nel 1952 per l'esattezza, decide di mollare Venezia, mollare la famiglia per una baggianata, per una stupidaggine che compie, legata ad un cattivo voto preso a scuola, di andare in Francia, e lì viene quasi coattamente invitato ad arruolarsi, perché altrimenti avrebbe dovuto fare 3 mesi di carcere, perché nel 52 senza documenti in Francia eri un clandestino. E lì comincia questa storia, lì comincia la storia di Antonio Cocco, che da quel momento prende a scrivere a casa, ai suoi familiari, al padre in particolar modo, ma a tutti quanti i fratelli. Erano 10 fratelli i Cocco in quegli anni. Ebbene, da lì comincia questa storia, che durerà ahimè un paio d'anni, non di più. Antonio comincerà a scrivere dicendo quello che vive, quello che succede, raccontando le persone che incontra, le sofferenze, la vita di privazioni che prova prima in Algeria durante la fase di addestramento, e poi dopo, quando andrà in Indocina a combattere una guerra non sua, una guerra francese, una guerra nel Vietnam francese, o meglio nel Vietnam, poi quello che i francesi credevano fosse francese, in realtà era semplicemente Vietnam. Insomma, questa è la storia che stiamo raccontando, è la storia che Mauro Pescio ha raccolto grazie all'Archivio Aderistico Nazionale di Pieve Santo Stefano e grazie ai familiari, ai parenti di Antonio Cocco, di cui sentirete oggi in particolar modo in una puntata molto ricca delle loro voci. L'abbiamo tratta da un libro che è stato pubblicato grazie all'Archivio Diaristico per Terre di Mezzo, si chiama Ridotta Isabel, ed è proprio quel compendio di lettere che Antonio scriveva a suo papà e ai suoi familiari. Oggi la puntata di oggi che Mauro Pescio ha raccolto e messo insieme parla soprattutto di un personaggio, di una persona, di un amico molto caro che Antonio aveva nella Legione Straniera. Era un tizio olandese che a un certo punto si palesa anche a Venezia. Nell'ultima puntata di questa storia, Tony parla di un amico che ha conosciuto nella Legione Straniera. Si tratta, con ogni probabilità, della persona più vicina a Tony di tutto il periodo che lui passò nella Legione. Si chiamava Teo Lucassen, sto cercando il nome Lucassen, Teo Valce Lucassen, e nella Legione si faceva chiamare Martin Liestra. Lui era un olandese. Io adesso non ricordo perché lui era finito nella Legione Straniera. In una lettera di Tony c'è scritto, mi pare, comunque per una fesseria anche lui. Io mi ricordo che una sera suona il campanello di casa e io piccolino vado per la porta e mi trovo davanti sto umone grande e grosso, che non sapevo chi fosse, che parlava solo il francese, mi si sta inebettito a guardarlo e l'ho fatto entrare, ecco. E dopo lui si è spiegato chi era, e sono stato di fatto che è rimasto a casa nostra un anno, due, non mi ricordo. E l'olandese poi si è fatto vivere a Venezia, è rimasto a lungo a Venezia, voleva sapere, perché sapeva della sorella che si era sposata, che Tony gli aveva fatto regalare la borsa al padre, prelevando i soldi dal conto che aveva, dove metteva la paga, è rimasto lì un po' per un po' di tempo, lì poi è andato via, poi è tornato. Sulla sua presenza a Venezia io non ho mai approfondito poi le cose, perché siccome Giovanni lo sapeva, ne parlava eccetera, non ho mai fatto ricerche in famiglia particolari. Sì, sì, gli ha dato subito una camera eccetera, mio padre gli ha trovato anche un lavoro a un certo punto dopo. E con Teo, che poi soffriva di malaria, mi ricordo un suo attacco di malaria pieno di febbre, che andavo a trovarlo sopra in cameretta, ma con lui ci andava spessissimo in barca, spessissimo. Poi lui in casa faceva lezioni di francese a mie sorelle, e con me invece si usciva in barca, si andava fuori in laguna col faro nostro, spessissimo veniva via. Mi raccontava un po', sì, di sta vita che facevano, mi raccontava quando in certe situazioni, non so per quali motivi, il comandante si incazzava del genere, faceva attraversare tutta la truppa la città camminando sulle ginocchia, per esempio. Cioè, fatti del genere mi raccontava dei fucili che avevano, come si caricavano, come si sparava, perché mentre quello mi era molto incuriosito su, diciamo, sulle armi. Si erano conosciuti in ospedale a Saida, quando Tony era rimasto ferito a una mano, si erano conosciuti lì. So che aveva trovato un lavoro a Venezia, so che aveva trovato una amorosa. Io mi ricordo piccoli fatti, non importanti, le piccole cose da ragazzino. Certo. Per esempio, a un certo punto mi raccontava che lì era abitudine, in regione straniera, se lui diceva una cosa e tu gli dicevi 22, lui doveva farla. E un giorno in barca, mi va che bello, ha detto che so nuotare quasi quasi attraverso il canale del Giudecca nuotando. E gli ho detto 22, onde? E lui si è buttato in acqua, sono andati a recuperarlo perché era una pazzia per lui, sapeva nuotare ma non tanto. Okay, quelle stupidaggini imparate in caserma là, e mi ricordo che lo recuperai in acqua e a stento l'avevo tirato in barca, insomma. E non sai perché invece là si chiamava Martin? Il suo nome era Theodore Baclucas, mi risulta, no? Sì, ma sulle lettere? Sì, aveva cambiato nome, credo per una tattica, per, non so, per non farsi riconoscere, per un motivo di prudenza. Ricordo che la storia seriale che raccontiamo tutti i giorni potete riascoltarla il sabato alle 21.30 oppure online sul nostro sito radio24.it alla pagina di Linee d'Ombra, la storia di Antonio Cocco in pillole da tutte e cinque le storie che vi raccontiamo da lunedì al venerdì in un unico blocco. Quindi se avete voglia di riascoltarla, se avete magari perso qualche pezzo, potete recuperarla lì. Grazie a Mauro Pescio, grazie a Luca Micheli, grazie a Danita Panizza e a Paolo Corleoni che rendono possibile questo programma. Ora la linea va al GR e noi torniamo domani martedì puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.